moglie Gestos e questo è il nostro primo concerto. Non è vero. Wow. È il primo concerto con te. Con me. Sì. Prima di una lunga serie. Non è essere precisi, eh. Sarai emozionato, no? Thank you. fa già di fermarsi. Vai amica, vieni con me. Vale, però che guarda. Fuori già si prima.